The Horse Women of the Wallawas, le Amazzoni dei Wallawas. Circa un secolo fa, negli anni 30, Jean Burney, insegnante di pianoforte e canto innamorata della montagna e della natura selvaggia, ebbe l'idea di formare gruppi di donne e di guidarle sui sentieri delle Wallawa Mountains, una catena montuosa in Oregon, lungo un percorso di oltre 200 km in 10 giorni. L'Oregon si trova nella parte occidentale degli Stati Uniti, affacciato sull'Oceano Pacifico tra California e Canada. La catena dei Wallawa si trova nella parte orientale dello stato, al confine con l'Idaho, ed è lunga circa 150 km. Raggiunge altezze notevoli, il suo punto più alto è Eagle Cup, di quasi 3.000 metri, che si trova al centro dell'omonimo parco naturale ed è meta del Eagle Cup Hen Party. Una sorta di viaggio iniziatico ispirato alla storica Horse Women of the Wallawas, nel corso della quale, tra gli anni 30 e 50 del Novecento, gruppi di donne indipendenti, amanti della natura selvaggia, abili cavallerizze ed esperte di vita all'aperto, lo raggiungevano in un viaggio a cavallo di 10 giorni. L'espressione hen party sta per addio al nubilato, ma letteralmente significa festa delle galline, dunque sminuisce parecchio il significato profondo di quel viaggio, che esprimeva la voglia di indipendenza di questo gruppo di donne coraggiose che volevano uscire dai rigidi protocolli dell'epoca. Tutto nacque dalla sororità tra due donne, Jean e Grace, trasmessaci dalle lettere che si scambiavano, due donne che volevano uscire dai ruoli di genere imposti loro dalla società del tempo, che informarono i reciproci mariti della loro intenzione di andare da sole a cavallo sulle montagne. Non si era mai visto che delle donne per bene azzardassero consapevolmente e volontariamente una simile impresa. Erano, come sappiamo, tempi in cui le donne dovevano obbedire e gli uomini erano i capifamiglia. La cosa non era considerata opprimente per le donne allora, era una situazione del tutto normale e per lo più accettata. Certo, la storia americana è piena di donne che hanno attraversato le montagne da est a ovest, ma sui carri dei pionieri e delle pioniere e guidati dai mariti. Oppure, se viaggiavano da sole, era a causa di qualche disgrazia che le obbligava a fuggire. Di certo a nessuno era mai venuta in mente di farlo come prova di forza e resistenza per dimostrare che le donne potevano sopravvivere da sole sulle montagne. Si vollero chiamare hen party perché erano solo donne, dovevano essere in grado di cavalcare per i ripidi sentieri delle Wallawa e cavarsela in alta montagna. Prima di partire dovevano sottoporsi a un test che Jean esigeva per verificare l'idoneità delle partecipanti. A un'impresa sicuramente impegnativa e rischiosa. Nella sua meticolosa scelta, Jean, che le accompagnò per quasi 30 anni, invitava donne che a suo avviso fossero indipendenti e che sapessero cavalcare bene su sentieri impervi. Sapeva che questa esperienza le avrebbe rese consapevoli di quanta forza e grinta avrebbero saputo tirar fuori. Per alcune donne del gruppo questa esperienza era una sfida, per altre una vera guarigione. Dormivano all'aperto, cucinavano sul fuoco da campo nelle pesanti padelle di ghisa, pancake di grano saraceno, gnocchi di mirtilli, biscotti e panini, bistecche e pesce quando riuscivano a pescarne nei fiumi che incontravano lungo il cammino e nei quali si lavavano anche e riempivano le borracce e le taniche. La pianificazione del viaggio iniziava mesi prima. L'attrezzatura e le provviste con cui partivano erano essenziali, niente di superfluo era consentito. Selle, coperte da sella, bistecche, uova, pancetta, caffè, una caffettiera. Quando incontravano dei pastori, barattavano parte del loro pesce con carne di agnello o montone. Cucinare era per loro un'attività fondamentale. Non si trattava di una semplice scampagnata, era una vera e propria sfida che metteva le partecipanti a dura prova, anche coloro che cavalcavano molto bene. Le donne dovevano essere in grado di trasportare da sé il proprio bagaglio, di stare tutto il giorno in sella, di accendere un fuoco, montare una tenda, cucinare sul fuoco da campo. La preparazione fisica ed emotiva richiedeva molto tempo e molte di loro capirono solo in quel momento cosa significasse davvero. L'amicizia e la profonda connessione che legava tutte loro emerge dal Log of the Ladies, il diario delle ladies, in cui venivano registrate le loro conversazioni, riflessioni, poesie e canzoni sulla natura, sui sentieri che percorrevano ogni giorno, gli aneddoti raccontati intorno al fuoco la sera al campo, dove stavano sveglie fino a tardi sotto le stelle a scambiarsi confidenze, proprio come in un cerchio di donne. Grazie al diario delle ladies, le loro memorie sono giunte fino a noi. Possiamo immaginarle, queste donne in alta montagna, di notte, illuminate solo dal fuoco del campo, che cantano mentre una di loro suona la chitarra. Raccontano, per esempio, di quando dovettero affrontare la pioggia, a cavallo, in alta montagna, e tutti i loro indumenti e attrezzature negli zaini si infradiciarono, di come, facendosi coraggio a vicenda, accesero un fuoco e stesero vestiti e sacchi a pelo sui rami degli alberi, aspettando con pazienza che tutto fosse asciutto, e stando sedute in cerchio, vicinissime, per non disperdere il calore dei loro corpi, circondate dai loro cani. Con il passare degli anni, queste gite sui monti Wallawa divennero multigenerazionali. Le discendenti delle veterane del Hen Party sono orgogliose che questa esperienza sia parte della loro storia di famiglia e desiderano che anche le loro figlie e nipoti la sperimentino. Dove tu cavalchi sulla cima delle montagne e puoi vedere lontano per miglia e miglia, quando i tuoi occhi incontrano il nulla e un panorama selvaggio e il silenzio è come una musica, ti dico che c'è qualcosa nel cavalcare che fa quasi perdere un battito al cuore. I diari non sono solo il resoconto del percorso tra sentieri rocciosi, pieni di sassi e pietre, di creste da solcare, di fatiche condivise, di rocce di calcare enormi e cime di marmo da raggiungere, ma anche il racconto della spaventosa bellezza e grandezza che si apriva davanti ai loro occhi, come il Matterhorn, una cima calcarea bianca e spettacolare, simile al cervino. Un'altra grande lezione ci viene tramandata dai diari dello Hen Party. Quando vai nella natura, lascia che sia se stessa, non cercare di cambiarla, non puoi fare di lei ciò che tu vuoi. Imparando a conoscere la terra e la sua vita, sviluppi in te saggezza e tolleranza. Questo succede quando ti fermi e ascolti. Sotto la luna, sotto le stelle, sotto l'abete e il pino, cantano le donne accompagnandosi con la chitarra. La donna appoggia la testa sulla terra consacrata e sorride nella notte serena. Ma torniamo al primo gruppo di donne che partì a cavallo intorno al 1930 per attraversare le montagne Wallawa. Erano guidate dalla 45enne Jean Burney, nata nel 1885. Insieme a lei, fin dall'inizio, l'inseparabile amica Grace McKinnon. 10 anni prima era stato concesso il suffragio universale negli Stati Uniti, ma in Oregon le donne votavano già dal 1912. L'icona delle campagne di liberazione femminili, Emmeline Pankhurst, aveva lasciato il corpo da 2 anni, stremata dalle dure battaglie per il voto alle donne e dai molti mesi di carcere. Ma le donne che davvero si sentivano emancipate non erano molte. Secoli di addestramento all'obbedienza non si potevano certo cancellare in poco tempo, ma le spedizioni a cavallo aiutarono le partecipanti a guadagnarsi il diritto a fare delle cose senza mariti, nonostante, per ironia della sorte, i giornali dell'epoca che parlarono della loro impresa le abbiano nominate tutte con nomi e cognomi dei loro mariti, come era la prassi a quel tempo, poiché in America, quando una ragazza si sposava, perdendo anche il nome, oltre che il cognome di nascita, diventava la signora Mario Rossi. Dunque, nell'articolo, le partecipanti a quest'impresa, dal sapore assolutamente ginetico, risultarono essere la signora George Burney, la signora Albert Epling, la signora Thomas McGuire, la signora Ralph Bagley e così via. Jean fece il suo viaggio di nozze a cavallo e una delle donne che parteciparono ai suoi hen party disse: Jean si è sposata a cavallo ed è rimasta a cavallo per il resto della sua vita. E ha aggiunto: le mogli dovevano fare ciò che i mariti volevano e come volevano, ma con grande sorpresa di mio marito, dopo essere andata a cavallo con Jean, ero io a dire a lui come volevo che fossero fatte le cose. Jean lasciò il corpo nel 1974, a 88 anni. La traversata si ripeté ogni estate per diverse decadi e nel 2023 le tre nipoti adottive di Jean, Melissa, Sharon e Sally, figlie di una figlia di Grace, di un'età compresa tra i 68 e gli 80 anni, decisero di raccontarla, rendendo pubblico l'archivio di quelle cavalcate, incluso il cosiddetto diario delle ladies, compilato dalle partecipanti, e permettendo alla regista Jewel Gilfillan di filmare e produrre per OPB, Oregon Public Broadcasting, un magnifico documentario dell'impresa, in cui le tre anziane nipoti di Jean, Melissa, Sharon e Sally, appunto, e le loro figlie e nipoti, hanno attraversato le Wallawa e raggiunto Eagle Cup, seguendo fedelmente le indicazioni riportate nel diario delle Ladies. Il documentario che ha ispirato questo nostro docuvideo è stato pubblicato su YouTube ed è disponibile. Ne lasciamo il link in descrizione. Come scuola delle donne abbiamo definito la traversata delle Wallawa fino a Eagle Cup un viaggio iniziatico e lo confermiamo, poiché lontane dalle piazze, dalle manifestazioni, dai cartelli, dagli slogan, queste 10 donne dimostrarono con chiarezza e forza il diritto alla parità di genere, al rispetto e alla considerazione, e lo dimostrarono coi fatti. Nello stesso periodo in cui Jean Burney organizzava le sue traversate montane, altre grandi viaggiatrici hanno dimostrato in tutto il mondo di cosa fossero capaci le donne. Ne abbiamo parlato in diversi nostri docuvideo raccolti nel podcast Le grandi viaggiatrici, di cui lasciamo il link in descrizione. Le Horsewomen of the Wallawas hanno in più la meravigliosa aggiunta di essere una sororità, un gruppo di donne che si sono aiutate e sostenute nel portare a termine un'impresa che avrebbe cambiato per sempre le loro vite e lo stereotipo femminile che allora e spesso ancora oggi contamina la storia umana.